Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unico formato radiofonico che vi porta i fatti, le idee, i progetti dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La trasmissione di questa settimana è stata registrata negli studi di Radio Fragola Trieste, che ci ha messo gentilmente a disposizione uno spazio per continuare a produrre la nostra trasmissione durante la trasferta estiva a Radio Fragola, la nostra più sentita gratitudine. E cominciamo con l'attualità. L'attualità non può che riguardare il clima. Un rapporto stilato da scienziati di 13 agenzie governative statunitensi denuncia i gravi effetti dei cambiamenti climatici, sottolineando che l'attività umana è una delle principali cause di questo sconvolgimento. E a questo proposito abbiamo tante notizie, per esempio una notizia ci viene proprio dalla Coldiretti che denuncia meno latte a causa del caldo. Stress da caldo anche per gli animali nelle case, nei pascoli, negli alveari, nei pollai e nelle stalle, dove le mucche con le alte temperature stanno producendo fino al 20% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. È questo l'allarme lanciato da chi sugli animali ci lavora, ci guadagna, ci lucra, in questo caso la Coldiretti, che si è basata sui dati del sistema di allerta caldo del CREA, che parlano di situazioni con massimo grado di emergenza e mortalità per gli animali in molte regioni, dal Veneto alla Lombardia, dall'Emilia alla Toscana, dalla Calabria alla Sicilia, fino in Sardegna. Dopo mesi molto siccitosi manca anche il fieno necessario all'alimentazione degli animali con prati e pascoli, sottolinea Coldiretti, che sono a secco e non riescono a garantire l'alimentazione di mucche e pecore stressate dal caldo. In molte aree è stato necessario acquistare mangime e foraggi all'esterno per integrare la produzione aziendale e si teme per il raccolto di mais. In alcuni casi è stato necessario anche mobilitare autobotti per garantire l'acqua da bere agli allevamenti. Ora, a proposito del caldo, passiamo invece alla situazione negli zoo. Naturalmente anche lì la sofferenza aumenta in questo periodo a fronte di una delle ondate di caldo più intense che abbia colpito il nostro paese. L'Ente Nazionale per la Protezione Animali, l'ENPA, chiede alle autorità della sanità veterinaria di valutare lo stato di salute degli animali detenuti in cattività. In particolare esprime preoccupazione per gli orsi polari dello zoo safari di Fasano Brindisi. Scrive al riguardo la struttura sul proprio sito web: l'orso polare è presente in tutte le regioni artiche intorno al polo nord, vive in genere solitario ed è un perfetto nuotatore anche in mare aperto. Il punto è proprio questo, afferma una nota EMPA. Cosa ci fa un animale del polo nord a più di 4.500 km di distanza dal proprio habitat naturale in una città della Puglia, poco a nord di Brindisi, con un termometro inchiodato ai 36 gradi? E cosa ci fa questo orso polare in una vasca di pochi metri che non ha nulla a che vedere con il mare aperto, dove è appunto un perfetto nuotatore? Costringe costringere un essere senziente a vivere da recluso in un ambiente per il quale la natura non lo ha progettato rappresenta una forma di maltrattamento in sé, e noi questo lo diciamo da sempre. Gli zoo andrebbero aboliti proprio come concetto. L'idea di pagare per guardare un animale tenuto prigioniero lontano dal proprio habitat è una cosa aberrante. Gli orsi polari, conclude poi Empa, sono nati per vivere tra le isole di ghiaccio del Grande Nord, non certo in mezzo ai trulli, costretti a sperimentare sulla propria pelle l'ondata di caldo più intensa vissuta nel nostro paese nell'ultimo decennio. Infine, ancora sul caldo, nonostante il grande calore, a Roma e a Firenze sono state avvistate ancora le botticelle che circolano nonostante l'allerta meteo, carrozzelle trainate da cavalli sempre più stanchi, sempre più fiacchi, spesso con la bava alla bocca, continuano a circolare a beneficio di turisti sia a Firenze che a Roma. È uno spettacolo deprimente, una denuncia che speriamo venga ascoltata. Ci auguriamo davvero che l'esperienza dei cavalli che trainano persone abbia fine al più presto. Allora, cocchi, siete pronti per ordinare? Sì, volevo dire che sono vegana. Ah, ma non c'è problema, guarda. Solo toglimi un attimo una curiosità. Ma voi la credete la Madonna? No, ma come? Noi siamo quelli che non mangiano la carne. Ma voi siete quei pazzi che non mangiano niente. Ma no, guardi che un piatto di pasta va benissimo, eh. Perfetto, allora, ti faccio una pasta col parmigiano reggiano. No, no, come? Il parmigiano è formaggio. Ma che esagerati, il parmigiano non è formaggio. È un dato di fatto, gli uomini sono carnivori, altrimenti sti canini, dimmi come li giustifichi. Sei il solito nazi vegano, becero, ignorante, insensibile verso la sofferenza delle piante. Se fossi con tua nonna su un'isola deserta, senza dado vegetale per condire la minestra, con un coltello in mano e il poco tempo che ti resta, chi metteresti nel brodo, una carota o la vecchia? Io sono un cacciatore, nel bosco in discoteca, se mi viene un pallore mangio una bella bistecca. Ma un neonato non può scegliere, non potete obbligarlo, non potete privarlo dell'omogenizzato al cavallo. Noi siamo studenti di sinistra e libertà, studiamo informatica all'università, hackeriamo pagine vegane con facilità per postarci la grigliata di 2 settimane fa. E da quando va di moda questa moda dei vegani, faccio selfie con costine in bocca un po' come i miei cani. Non toccatemi i miei cani perché amo gli animali, ad eccezione di vitelli, polli, pecore e maiali. Le mucche vanno munte se non scoppia la mammella, le galline stanno bene se allevate a terra. Un'altra notizia tratta di un curioso fenomeno: gli abbandoni di husky che erano stati adottati in seguito al lancio della serie televisiva Il Trono di Spade. Dall'esordio sul piccolo schermo del Trono di Spade nel 2011 c'è stato un incremento esponenziale delle vendite delle adozioni dei cani di razza Siberian Husky e Alaskan Malamute. Ma i proprietari di queste piccole copie di Nimeria, Vento Grigio e Ghost negli anni poi li stanno mano a mano abbandonando o lasciando nei canili, soprattutto nell'area di San Francisco. Dopo aver ricevuto quasi 45 cani indietro in un mese, Angelique Miller, presidente della Northern California Sled Dog Rescue, ha affermato: queste persone guardano la TV e pensano che siano dei bellissimi cani. La gente però qui non ha alcuna idea della differenza tra un cane e un lupo. Agli incontri per le adozioni ci chiedevano sempre se quelli che vedevano erano lupi, quando invece erano chiaramente degli husky, cioè dei cani. Seguono solo la moda televisiva del momento. Dal nostro punto di vista, animalista, antispecista e vegan, la moda del cane di razza, più in generale direi il concetto stesso di razza, dovrebbe diventare oggetto di riflessione, di ripensamento. In particolare, dopo i tragici fatti del Novecento, la stessa parola razza dovrebbe farci rabbrividire. A questo proposito vi proponiamo oggi la recensione del libro Pura Razza Bianca, a cura degli editori indipendenti Troglodita Tribe. Per saperne di più su questi piccoli editori antispecisti, vi consigliamo di visitare il loro sito web trogloditatribe.wordpress.com. Pura razza bianca di Frank Westerman, Iperborea Edizioni, pagine 384 euro 17. Pura razza bianca

ne avrebbero fatto scempio. Quindi un'intensa riflessione sui più sottili processi di dominio e maltrattamento, che, ben lungi dall'essere perpetrati esclusivamente sugli animali, dovrebbero spingerci ad ampliare gli orizzonti di un animalismo superficiale e che potrebbero essere uno stimolo ad aprire nuovi fronti di resistenza sullo scenario scientifico, là dove i giochi del potere stanno creando la sottomissione del domani. Milioni di uova sono state contaminate da un insetticida pericoloso per la salute, il fipronil, e per questo motivo sono state ritirate dagli scaffali di tanti supermercati in Europa, in particolar modo Belgio, Olanda e Germania. Il fipronil è un insetticida comunemente usato contro pulci, acari e zecche, ma è vietato in animali destinati alla catena alimentare, come appunto i polli. Risulta altamente tossico per topi, per api, conigli e alcune specie di uccelli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il fipronil moderatamente tossico per l'uomo. L'esposizione all'insetticida può causare nausea, vomito, dolori addominali e crisi epilettiche. Se consumato in grandi quantità, può causare danni a reni, fegato e tiroide. In Olanda 180 allevamenti sono stati chiusi dopo questo allarme. Il portavoce dell'Agenzia Belga per la Sicurezza degli Alimenti ha ammesso che il problema del fipronil era conosciuto fin da giugno, ma è stato atteso il 20 luglio per notificare il problema al sistema di allerta europeo, così da informare gli altri paesi dell'Unione. Anche l'Italia potrebbe essere coinvolta dopo che le autorità del Belgio hanno informato la Commissione e gli altri paesi dell'Unione Europea che il prodotto all'origine della contaminazione da fipronil è utilizzato anche sul mercato italiano. Dall'Olanda l'Italia ha importato nel 2017 578 tonnellate di uova di gallina. Contattato telefonicamente via email, il Ministero della Salute finora non ha risposto alle domande dell'AGI sulla presenza in Italia del prodotto Dega 16 o di uova contaminate con il fipronil. A proposito di uova, una delle galline più fortunate che abbiamo conosciuto nella nostra storia radiofonica è sicuramente stata Nina, una gallina molto speciale la cui intervista andò in onda nella puntata dell'11 giugno 2016 e che, se vorrete, potrete riascoltare semplicemente cercando nel nostro blog, nella nostra home page restiamoanimali.it, la parola Nina. La Nina è anche una pagina Facebook che raccoglie le eroiche gesta di questa gallina fortunata, perché ha avuto la possibilità di estrinsecare tutte le sue qualità essendo stata risparmiata dallo sfruttamento. La persona speciale che l'ha salvata e che vive con lei si chiama Silvia Amodio, e Silvia Amodio nella vita fa la fotografa e la giornalista. Di una sua mostra fotografica di grande richiamo, di grande successo, parlerà il servizio principale di oggi a cura della nostra Roberta Marino. Sono con Silvia Amodio al Castello Sforzesco a Milano e in compagnia anche di Nina, sempre immancabile presente. È vero, sì, la Nina mi accompagna insomma appena possibile. Intanto diciamo che la Nina è una gallina ed è la mia coinquilina, insomma, per la cronaca. E lei può essere un po' un testimonial oggi della tua mostra. Di che mostra si tratta? Di qual è il progetto? Il progetto fa parte di una campagna che consiste in una raccolta permanente di cibo in tutti i punti vendita Coop di Milano e di altri comuni della regione che si stanno così aggregando a questa iniziativa. E all'interno di questa raccolta cibo, che viene poi distribuita attraverso le associazioni animaliste che insieme al comune hanno aderito all'iniziativa, ci sono anche una serie di iniziative, diciamo, più di carattere culturale, filosofico, proprio per raccontare, evidenziare a 360 gradi quella che è la complessa relazione tra l'uomo e gli altri animali. E in questo caso al Castello Sforzesco è esposta questa mostra che racconta una relazione speciale, se così possiamo dire, o quantomeno antica, quella che lega il cane al proprio padrone, anche se padrone è veramente un termine che non ci piace. Fine settimana prima di San Valentino, ormai è quasi una tradizione a Milano perché è il terzo anno che lo facciamo al Castello Sforzesco, allestiamo un vero e proprio set fotografico e per celebrare questa amicizia, questo amore, un po' la risposta alla mia idea di famiglia. E partecipano tantissimi cittadini, non solo perché abbiamo persone che vengono a Pordenone, da Trento, da Genova, ormai è un appuntamento abbastanza esteso, e queste stesse fotografie scattate all'interno del castello vengono poi esposte qualche mese dopo e proprio all'interno della cornice del cortile della Rocchetta, peraltro una location bellissima, meravigliosa. E quello che mi piace però osservare è che si sono presentate a sorpresa, forse non così tanto a sorpresa, anche altre specie animali oltre al tradizionale cane, che come vedete ospitano anche un'anatra, dei furetti, dei conigli, delle galline, proprio perché si sta estendendo il concetto di pet anche animali non convenzionali. Specifichiamo che sono tutti questi animali di famiglia, non sono animali che sono lì per caso, cioè la foto è del compagno umano e proprio il compagno animale, visto che non vogliamo dire padrone, proprietario in nessun altro modo. È vero, sono animali di famiglia e per quanto io abbia una gallina, e quindi ti puoi immaginare che voglia vedere la gallina sdoganata come pet, però invito anche alle adozioni di buon senso. È chiaro che ogni animale ha bisogno delle proprie esigenze, caratteristiche etologiche, perché c'è il rischio se no di cedere a così prendere un animale male perché simpatico, come per esempio il coniglio. Io non lo sapevo, il coniglio pare che sia il terzo animale più presente nelle famiglie degli italiani, però anche un animale molto delicato, contrariamente a quanto si pensi, che ha delle esigenze molto precise, ha bisogno di una dieta particolare. Ecco, per qualsiasi creatura si decide di adottare, bisogna sempre tenere conto che sono delle relazioni che durano nel tempo e devono essere fatte in maniera assolutamente responsabili. E invece le donazioni sono destinate solo a canili e gattini? Allora, su Milano aderiscono varie associazioni animaliste selezionate dal Comune di Milano e quindi loro ricevono il cibo che destinano poi ai singoli, ai privati, ai canili, ai gattini. Noi sfamiamo per esempio anche moltissime colonie feline. Mi piace ricordare un dato, perché si pensa che magari a Milano non ci siano problemi nelle grandi città. Tu pensa che a Milano abbiamo più di 1100 colonie feline censite, più tutte quelle non censite. Tra l'altro qua al castello ce ne sono anche tanti, infatti. Ce ne sono tanti, infatti io ho fatto poi un video dedicato proprio a una gattara storica che è la Rosy del castello, quindi tu pensa, oltre 22.000 gatti solo a Milano, di cui persone di buon cuore si prendono cura. Quindi questo progetto, di cui io sono veramente tanto orgogliosa, dà un aiuto proprio pratico e concreto a queste persone che francamente si prendono cura anche di tasca propria 365 giorni all'anno. La Rosy è al castello da 40 anni, mentre nei centri un po' più piccoli, dove è arrivato Alimenta l'Amore, dove magari c'è solo una piccola associazione, allora lì la gestione e l'organizzazione per ovvie ragioni più semplici, quindi il supermercato si mette direttamente d'accordo con l'associazione di riferimento e viene gestito in una maniera un po' più semplice. Sarà una mostra itinerante sul nostro sito www.alimentalamore.it, sicuramente sarà un po' raccontato l'itinerario, poi è un po' presto, però insomma l'anno prossimo, il fine settimana prima di San Valentino, siamo sempre qua per raccontare e celebrare questa bellissima, lunghissima storia d'amore. Il 26 agosto 2017 è stata convocata la prima giornata mondiale per la fine dello specismo. Alcune associazioni svizzere hanno convocato per il prossimo 26 agosto 2017 la prima giornata mondiale per la fine dello specismo, all'interno della quale alcune azioni saranno organizzate in numerose città. Durante questa giornata internazionale ciascuna realtà antispecista è invitata a organizzare un corteo o altri avvenimenti in favore di una reale considerazione degli animali. Verrà anche organizzato un grande corteo in Svizzera, così come a Ottawa e Toronto in Canada, a Zagabria in Croazia e a Los Angeles negli Stati Uniti. Per informazioni c'è la pagina http://end-of-speciesism.org/fr come Francia. In Svizzera, poi, nei giorni 1, 2 e 3 settembre, a Ginevra, verrà organizzato un weekend di riflessioni attorno alla discriminazione specista e lo sfruttamento degli animali. Il programma è molto denso e vede la partecipazione di alcuni dei più noti attivisti e pensatori animalisti e antispecisti d'Europa. Metteremo il programma nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi gioco di anticipo, perché la ricetta che vi propongo, tipica della cucina triestina, ha come ingrediente protagonista le prugne, quelle belle dolci che generalmente si possono raccogliere a fine agosto, settembre ed ottobre. Quindi tenetevi pronti per realizzare gli gnocchi di Susini. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 kg di patate, 250 g di farina, un pizzico di curcuma in polvere, olio extravergine, un pizzico di lievito in polvere non vanigliato, sale, 1 kg di prugne fresche denocciolate, zucchero di canna, 2 cucchiai di pan grattato e della cannella. Lavate le patate e lessatele in abbondante acqua salata, quindi scolate, pelate e schiacciate senza lasciare che si freddino troppo. Aggiungete il sale, la farina, un cucchiaio di olio, un pizzico di curcuma e il lievito, quindi impastate rapidamente. A parte, sistemate le prugne denocciolate, cospargendo ognuna con poco zucchero e cannella. Stendete l'impasto col mattarello su una spianatoia infarinata. Con l'aiuto di un coppapasta realizzate dei dischi e disponete al centro le prugne. Chiudete bene ogni dischetto avvolgendo la prugna e formando delle palline. In una padella fate rosolare il pan grattato nell'olio a fuoco lento assieme a poco zucchero e cannella. Immergete gli gnocchi in acqua bollente salata e quando saliranno a galla scolateli e passateli nella padella col pan grattato rosolato. Questo è un piatto che potete servire sia come primo piatto che come dessert. E siamo in chiusura, ricordiamo le persone che hanno contribuito alla realizzazione e alla messa in onda della puntata di oggi e che sono Silvia Amodio, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Lella e Fabio, meglio conosciuti come i Troglodita Tribe, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Dado e Lucia di Radio Fragola e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stessa onde, stessa ora.